Dialogo 46esimo. Raccontò Ibn Abbas: disse l'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e l'abbia gloria, non vi farò sapere chi è colui che si trova in una posizione indecorosissima? Gli fu risposto: informacene. Disse: colui che chiede l'elemosina in nome di Allah e che non la fa in suo nome.